Montecitorio e dintorni di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, qui da Montecitorio noi ci colleghiamo con il nuovo vicepresidente dei deputati della Camera, Andrea Martella. Buongiorno Andrea Martella. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, subito con la notizia poi del Consiglio dei Ministri di ieri, che finalmente è stato trovato l'accordo per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti. Nel Partito Democratico c'erano state discussioni su questo tema. Lei che cosa ne pensa? Ma penso che sia un'ottima scelta, è un progetto serio che il governo decide di portare a termine, lontano dalla demagogia e dalla superficialità con cui il tema del finanziamento della politica viene affrontato da molti altri. E la decisione mi pare molto chiara: si supera il modello attuale, cioè quello del finanziamento pubblico ai partiti, e si incentiva fiscalmente la possibilità che siano i cittadini a finanziare la politica, naturalmente la buona politica. E noi siamo convinti che un cittadino la potrà finanziare nella misura in cui un partito farà proposte serie, meritevoli di essere sostenute. Nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri trasformerà queste linee guida in un disegno di legge. Io credo che verranno approvate con uno spirito costruttivo in poco tempo. Dobbiamo sapere che questa è una direzione che da molto i cittadini ci chiedono, e il fatto che si realizzi è un fatto positivo. Ecco, però Beppe Grillo, che poi è un po' il fautore, lui ha stuzzicato Bersani, no, all'epoca su questo tema, ha detto che questa è un'ennesima presa in giro, non ha usato questa espressione, ha usato un'espressione, diciamo così, più colorita, preelettorale, e praticamente anche Crimi ha detto che insomma è la mossa diletta, visto che poi si vota a Roma. Cosa ne pensa di questa presa in giro paventata dal Movimento 5 Stelle? Ma guardi, a me pare che la propaganda la faccia sempre il Movimento 5 Stelle, Grillo, che non sa che cosa dire di fronte a provvedimenti importanti che vengono assunti. Vede, stiamo parlando di cose serie che dovrebbero essere affrontate senza la demagogia e senza la superficialità che invece adotta sempre Grillo. Dovremmo stare ai fatti, tutti dovremmo essere contenti. Nel momento in cui si va verso una giusta direzione, tutti dovrebbero esprimere soddisfazione. Poi ci saranno i provvedimenti in Parlamento conseguenti a questa decisione, e lì vorrò vedere che cosa farà Grillo. L'importante è che si sappia anche che accanto a questo provvedimento ci sarà anche un provvedimento sulla democrazia, sulla trasparenza, sulla partecipazione alla vita democratica, alla vita dei partiti. Sono due cose che stanno assieme. Su questa seconda cosa, democrazia, trasparenza, anche su Grillo c'è molto da dire. E quindi mi pare che le sparate le faccia lui in questo momento, non chi, come il governo, le forze politiche che lo sostengono, sta decidendo di fare un provvedimento del quale tutti dovrebbero essere soddisfatti e dal quale non si ritornerà indietro. Ecco, lei condivide il disegno di legge presentato da Zanda e dalla Finocchiaro al Senato? Viene considerato un disegno di legge antimovimenti perché, allargando l'articolo 49 della Costituzione, Anna Finocchiaro pensa a dei partiti che abbiano una personalità giuridica e uno statuto. Quindi di fatto una norma anti 5 Stelle? Io sono contro alla ineleggibilità di Berlusconi dopo 20 anni che Berlusconi è sulla scena politica, e sono contro qualsiasi tipo di disciplina che possa impedire o possa far sembrare che qualcuno voglia impedire al Movimento 5 Stelle di essere in politica. Su questo bisogna essere chiarissimi. Il disegno di legge che è stato presentato dalla senatrice Finocchiaro da Zanda ha avuto limite di sembrare di essere intempestivo, di sembrare contro qualcuno. In realtà non è così, perché è stato proposto anche nella precedente legislatura, quando non c'era ancora stato l'exploit del Movimento 5 Stelle, ma io sono stato uno dei primi a dire che in questo momento poteva essere strumentalizzato e considerato contro qualcuno e quindi era giusto ritirarlo. Secondo lei è un autogol per il Partito Democratico, visto che anche Berlusconi ha detto ma ci vogliono far fuori a noi e al Movimento 5 Stelle? Ma guardi, le ho detto prima, nessuno vuole far fuori nessuno per legge, né sarebbe possibile. Berlusconi e Grillo andranno battuti sul campo, e cioè sulle elezioni alle elezioni politiche con il consenso dei cittadini. Il disegno di legge in questo momento è apparso pertinente dal punto di vista politico, sicuramente intempestivo e quindi oggetto di possibili strumentalizzazioni. In questo senso la disponibilità a discutere in Parlamento di trasparenza, controlli, vita insieme dei partiti, democrazia dovrebbe venire da tutti, anche da Grillo, ma il provvedimento così com'è secondo me va ritirato. Che idea si è fatto su questa cosa della diaria? Perché insomma su questa cosa degli scontrini tutto è ancora un po' in divenire, loro dicono che la diaria non rendicontata verrà restituita, e, insomma, però poi c'è sempre un po' ancora di confusione su questo punto. Mi è sembrata abbastanza ridicola e stucchevole tutta questa attenzione da parte del Movimento 5 Stelle su questo tema, quando invece in Parlamento non li ho sentiti fare proposte particolarmente significative o intervenire su temi che riguardano la vita dei cittadini, che riguardano la disoccupazione, gli ammortizzatori sociali, i debiti nei confronti delle imprese. In fondo se hanno avuto tanti voti, anche il Movimento 5 Stelle li ha avuti da tante persone che pensano che devono essere risolti questi problemi, più che parlare tutti i giorni della loro diaria o di quello che faranno rispetto alla diaria. Sa che c'è, io penso che nel Movimento 5 Stelle ci sia un problema di democrazia interna e queste polemiche che sono avvenute nelle settimane scorse in fondo tra Grillo e i suoi deputati non sono altro che la dimostrazione che qualche limite di democrazia interna esiste. Lei crede nella blacklist dei giornalisti? Loro la negano. Loro mi pare che abbiano anche qualche rapporto difficile con la stampa. Credo che ci sia, non nel Movimento 5 Stelle in chi l'ha votato, un problema, ma credo che il problema sia il populismo, l'anti-europeismo, una sorta di leaderismo eccessivo che interpreta Grillo. Molta protesta ma poche proposte, questo lei dice in sostanza. Guardi, a me è parso di vedere che c'è molta propaganda, c'è una voglia di agitare problemi, soprattutto da parte di Grillo con i suoi interventi. Non ho visto in Parlamento proposte concrete, provvedimenti attorno ai quali lavorare, uno spirito costruttivo di cui ci sarebbe bisogno. Devo dire che anche quando li ho visti intervenire su molti delle proposte fatte dalla maggioranza o fatte dal governo, non ho sentito fare proposte alternative né fare emendamenti particolarmente significativi. La protesta in politica ci può essere, ma se non è accompagnata da uno spirito costruttivo, da una proposta, alla fine poi si rischia di non essere all'altezza dello stesso consenso che si è avuto da parte dei cittadini. Allora ricordiamo Andrea Martella, che è stato con noi oggi vicepresidente dei deputati del Partito Democratico. Io come al solito vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie.